prima di cominciare, rilassati, accendi il tuo computer, che ogni tanto fa bene fare qualche movimento. Quando senti il guru cantare, resta immobile, non respirare. Tenere la posizione indicata, non dimenticare. Leva il freno a mano, clarite, è come un treno. Grattati la pancia, metti il dito al naso, tappati le orecchie, mani in bocca muto, indice alzato, il mignolo piegato, il medio lascia stare, muovi l'anulare, insaponati le mani, muovo un po' i piedi, fai l'aeroplano, fallo piano piano, dai che ce la fai, lo so che già sei stanco, fra un po' ci riposiamo, il guru sta arrivando! Tu non sei una scimmia, tu non sei una mummia, con due dita fai vittoria, tu puoi cambiare la storia, muovi un po' le ciglia, asciugati la fronte, so che stai subendo le miserie di questo mondo, muovi un po' col capo, la testa fai girare, da destra a sinistra se ancora si può dire, sforzati a pensare che è difficile da fare, guarda che ore sono, la rete è come un treno, prenditi una foto, respira lentamente, alza gli occhi al cielo, fallo dolcemente, scruta l'orizzonte, inchino giapponese, la spalla fai ballare, l'altra lascia stare, non guardare il tuo ombelico, non guardare l'ombelico, non guardare l'ombelico, non guardare l'ombelico. Alza il braccio destro, fa il pugno con la mano, ora resta fermo e immagina il sereno. Cambia il quotidiano, fallo piano piano, basterebbe un tuo pensiero per rifare il mondo intero. È una danza minimale, come toro seduto davanti al tuo computer, muovi almeno un dito, fai ok, clicca mi piace, dagli corpo, dagli voce, vai avanti per la tua strada, senza intoppi, a libera ruota, fai granché con le mani, mangia i pesci cani, è una danza minimale, ma c'è tutto l'essenziale. Leva il freno a mano, la rete è come un treno, che anche il virtuale può far crescere, può far cambiare. Cambia il quotidiano, fallo piano piano, basterebbe un tuo pensiero per rifare il mondo intero. Leva il freno a mano, questo è l'ultimo treno che abbiamo per sperare, per crescere e per cambiare. Leva il freno a mano, questo è l'ultimo treno che abbiamo per sperare, per crescere e cambiare. Leva il freno a mano, la rete è come un treno, che anche il virtuale può far crescere, può cambiare. Sforzati a pensare che è difficile da fare, guarda che ore sono, la rete è come un treno. Cambia il quotidiano, fallo piano piano, basterebbe un tuo pensiero per rifare il mondo intero. È una danza minimale, come toro seduto davanti al tuo computer, muovi almeno un dito. Fai ok, clicca mi piace, dagli corpo, dagli voce, vai avanti per la tua strada, senza intoppi, a libera ruota, fai granché con le mani, mangia i pesci cani, è una danza minimale, ma c'è tutto l'essenziale. Leva il freno a mano, la rete è come un treno, che anche il virtuale può far crescere, può far cambiare. Leva il freno a mano, la rete è come un treno.